Bentornati al Deep Dive. Oggi ci tuffiamo in un argomento che sta facendo molto discutere ultimamente. ChatGPT e soprattutto le sue implicazioni legali, specie qui da noi, in Europa. Ah, ChatGPT. Eh già, pensate, ChatGPT è già al centro di diverse cause legali, avete sentito. E l'approccio europeo, potrebbe essere molto, molto diverso da quello degli Stati Uniti. Non so se avete seguito la vicenda. Già, è incredibile come ChatGPT, pur essendo così, diciamo, abile, no? Nel generare testo, in realtà non capisca davvero le informazioni che elabora. È proprio questo il punto. Il libro Critica di ChatGPT, che insomma abbiamo analizzato per voi, evidenzia come l'influenza crescente di ChatGPT stia portando piano piano a nuove sfide legali, specialmente per quanto riguarda, diciamo, il diritto d'autore e la privacy dei dati nell'Unione Europea. Ah, sì, sì. C'è un'analogia nel libro che mi ha colpito molto, ve la devo dire. ChatGPT viene paragonato a una fotocopiatrice Lossi, avete presente? Quelle che fanno copie un po' sbiadite e un po' imprecise. Ah, interessante. Questo introduce il concetto di allucinazioni, ovvero quando l'IA, inventa informazioni basandosi su, probabilità statistiche, anziché sulla vera comprensione. In pratica è come se ChatGPT inventasse cose di sana pianta. Esatto, si parla anche di pappagallo stocastico per descrivere questo fenomeno. Il pappagallo. In pratica ChatGPT ripete ciò che ha imparato dai dati ma senza capirne il significato. E questo solleva parecchi dubbi sulla responsabilità legale di ciò che produce. A proposito di allucinazioni, il libro cita un esempio incredibile, davvero. Il politico italiano Stefano Quintarelli, lo conoscete? Certo. È stato dichiarato morto da ChatGPT. Ah. Un esempio lampante di come queste invenzioni dell'IA possono avere un impatto concreto, Sì, sì, decisamente. E questo ci porta a un'altra questione cruciale. ChatGPT viene addestrato su materiale protetto da copyright, no? L'approccio americano del fair use, si scontra con quello europeo, che prevede eccezioni specifiche per il text and data mining, ovvero l'analisi di testi e dati, e un diritto di opt-out per i creatori di contenuti. Giusto, due visioni diverse. Quindi, in pratica, i creatori europei avrebbero la possibilità di impedire che le loro opere vengano usate per addestrare l'IA. Interessante, no? E come si comporterebbe OpenAI in questo caso? Il libro menziona iniziative come il motore di ricerca Have I Been Trained. Di cosa si tratta? Have I Been Trained? Diciamo che permette ai creatori di verificare se le loro opere sono state utilizzate per addestrare modelli di intelligenza artificiale. In sostanza, il diritto di opt-out consente ai creatori europei di chiedere che i loro contenuti vengano rimossi dai database di addestramento. E questo pone OpenAI di fronte a una scelta: ottenere licenze per utilizzare questi materiali o limitare i dati di addestramento, con possibili conseguenze sull'efficacia di ChatGPT, ovviamente. Capisco. Ma passiamo alla privacy dei dati, un tema che, tocca a tutti noi. Il libro paragona la raccolta di dati personali per l'addestramento dell'IA all'estrazione di risorse naturali. Un paragone forte, Cosa ne pensa? È un paragone calzante, direi. I nostri dati personali vengono trattati come una risorsa preziosa da sfruttare, no? Per addestrare questi modelli di IA. E non si tratta solo delle nostre attività online. Esatto. Il libro sottolinea come gli smartphone siano diventati dei veri e propri dispositivi di estrazione che raccolgono dati su ogni aspetto della nostra vita. Un pensiero un po' inquietante non trova. Assolutamente. Ed è proprio questo uno dei punti critici sollevati dal garante italiano della privacy, no? Nel caso di OpenAI. Ricordiamo che OpenAI ha dovuto apportare modifiche alle proprie politiche a seguito delle preoccupazioni del garante. Giusto, giusto. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea. L'utilizzo di enormi quantità di dati personali, comprese informazioni sensibili, per addestrare l'IA può essere davvero etico e legale? C'è un limite. Bella domanda. Il libro non usa mezzi termini e definisce ChatGPT come una forma di capitalismo estrattivo che sfrutta l'esperienza umana a scopo di lucro. Fa riflettere, è vero? Molto. È una domanda complessa e non c'è una risposta facile. Già, a proposito di leggi, mi viene in mente l'AI Act, il regolamento europeo, quello sull'intelligenza artificiale, è entrato in vigore a luglio 2024, se non sbaglio. Può essere uno strumento, efficace per affrontare queste sfide. Che ne dice? Ma l'AI Act è sicuramente un passo avanti, questo sì. Insomma, introduce un quadro normativo per l'IA, no? Classifica i sistemi in base al rischio e impone obblighi specifici. Però, è ancora presto per dire se sarà sufficiente a governare l'evoluzione rapida, no? Di tecnologie come ChatGPT che corrono veloci. È vero. Nel libro si sottolinea come l'AI riconosca l'importanza del text and data mining per lo sviluppo dell'IA. Però introduce anche il diritto di riserva, quello che consente ai creatori di escludere le proprie opere dall'addestramento. In pratica come funziona? Mi sa che non è chiarissimo a tutti. In parole povere, il diritto di riserva permette, agli autori e ai creatori di contenuti di decidere se vogliono o meno che le loro opere vengano usate per addestrare l'IA. È una sorta di clausola di salvaguardia, per tutelare la proprietà intellettuale in questo nuovo contesto digitale. Interessante, sì. Ma il libro non si limita solo agli aspetti legali, questo mi piace. Evidenzia anche le preoccupazioni legate, per esempio, all'ambiente. Ci hai mai pensato? L'addestramento di questi modelli di intelligenza artificiale richiede enormi quantità di energia. Eh sì, è vero. L'impronta ecologica dell'IA è un tema cruciale che non possiamo ignorare assolutamente. La cosiddetta Green AI, ovvero lo sviluppo di sistemi di IA più sostenibili dal punto di vista ambientale, ecco, questa deve diventare una priorità, secondo me. Giusto, sono d'accordo. E non dimentichiamo la questione della diversità e dell'equità. Il libro sottolinea come i pregiudizi, quelli presenti nei dati di addestramento, possano essere amplificati dall'IA. A presente, un esempio. Certo. Prendiamo il caso di BERT, un modello di Google, no? Si è osservato che tende a produrre contenuti più negativi nei confronti delle persone disabili. Questo dimostra, insomma, come sia fondamentale garantire che i dati di addestramento siano rappresentativi e inclusivi, in modo da evitare discriminazioni. Caspita, è vero. Un altro tema delicato che emerge dal libro riguarda gli effetti, diciamo, psicologici dell'IA generativa. C'è un caso davvero triste di un uomo belga, che si è suicidato dopo aver interagito con un chatbot. Ah sì? Roba forte. È un esempio drammatico questo, sì, che ci ricorda come l'IA possa avere un impatto profondo sulle persone e non è un gioco. Dobbiamo essere consapevoli dei rischi e promuovere un uso responsabile di queste tecnologie, soprattutto quando si tratta di interazioni con sistemi che, diciamo, simulano l'intelligenza umana. Non è sempre facile distinguere. A questo proposito, il libro sottolinea la necessità di educare gli utenti, soprattutto i più giovani, a un uso consapevole dell'IA. Cosa ne pensa? D'accordo. Concordo pienamente. L'educazione digitale, ecco, è fondamentale per sviluppare un senso critico e comprendere i limiti e potenziali rischi dell'IA. Dobbiamo imparare a distinguere tra realtà e simulazione, tra informazione attendibile e contenuto generato da una macchina. Non è scontato, soprattutto per i più giovani. Vero, vero. E non dimentichiamo l'importanza della trasparenza. Il libro critica l'utilizzo di un linguaggio, come dire, antropomorfizzante per descrivere l'IA come se fosse un essere umano. Ah, sì, capisco. Un po' fuorviante, no? Vero. Attribuire caratteristiche umane all'IA può creare false aspettative e nascondere i meccanismi reali di funzionamento. È importante usare termini più neutri, ecco, come sistema o algoritmo, per descrivere l'IA senza cadere nella trappola dell'antropomorfizzazione. Quindi, tornando alla domanda di fondo, come possiamo garantire che l'IA sia sviluppata e utilizzata in modo etico e responsabile? Non è facile, È una sfida complessa, questo sì, che richiede un impegno collettivo. Il libro sottolinea l'importanza della collaborazione tra diverse discipline, informatica, diritto, etica, sociologia. Servono competenze diverse per affrontare un tema così complesso e multiforme. Non basta un solo punto di vista. E questo dialogo, come suggerisce il libro, deve coinvolgere non solo gli esperti, ma anche i cittadini. L'IA sta trasformando la nostra società e tutti dobbiamo essere coinvolti nelle decisioni che la riguardano. Ognuno di noi. Esattamente. Il futuro degli anni non può essere deciso solo da pochi esperti, questo no. Serve un dibattito pubblico, aperto e informato per definire insieme come vogliamo che questa tecnologia si integri nella nostra società e quali limiti etici vogliamo imporle. È una questione che ci riguarda tutti, in fondo. Parlando di impatto sociale, non possiamo non affrontare la questione del futuro del lavoro. Il libro riporta diverse opinioni, sull'impatto dell'IA, sull'occupazione. Qual è la sua visione? Cosa ne pensa? Ma è un tema dibattuto, con posizioni diverse, questo sì. Alcuni temono che l'IA porterà alla perdita di posti di lavoro, altri ritengono che creerà nuove opportunità. La realtà probabilmente più complessa di una semplice dicotomia, non è tutto bianco o nero. Certo, nel libro si cita uno studio che stima che il 19% dei posti di lavoro negli Stati Uniti potrebbe essere automatizzato con le tecnologie attuali. Un dato che fa riflettere. Certo, è una stima significativa, ma non dobbiamo dimenticare che l'IA può anche creare nuovi posti di lavoro in settori, diciamo, emergenti. La chiave sarà adattarsi a questa trasformazione, investendo nella formazione e nell'aggiornamento professionale per acquisire le competenze richieste dal nuovo mercato di lavoro. E a proposito di regolamentazione, il libro analizza le diverse normative sull'IA in tutto il mondo. Ci sono approcci diversi, vero? Non c'è una soluzione unica. Sì, la regolamentazione dell'IA è un tema complesso e in continua evoluzione, questo sì. Ogni paese sta cercando di definire un proprio quadro normativo per affrontare le sfide poste da questa tecnologia. Non è facile trovare un equilibrio. Il libro sottolinea l'importanza di una regolamentazione che promuova l'innovazione, ma che al tempo stesso protegga i diritti e i valori fondamentali. Un equilibrio delicato da trovare, non c'è che dire. Esatto. Da un lato non possiamo soffocare l'innovazione con regole troppo rigide. Dall'altro dobbiamo garantire che l'IA sia sviluppata e utilizzata nel rispetto dei diritti umani e dei principi etici fondamentali. L'AIIT europeo cerca di bilanciare questi due aspetti. Ecco, ma è solo un primo passo. C'è ancora molto da fare. E questo percorso, come evidenzia il libro, deve essere guidato da una visione etica dell'IA. Dobbiamo sviluppare un'IA che sia al servizio dell'umanità e non viceversa. Non dobbiamo dimenticarlo. Assolutamente. L'IA non è una forza neutrale, ma un prodotto delle nostre scelte e dei nostri valori. Dobbiamo interrogarci su quali valori vogliamo che l'IA incarni e quali interessi vogliamo che promuova. Dobbiamo assicurarci che l'IA sia utilizzata per il bene comune e non per scopi, diciamo, dannosi. Quindi, in conclusione, l'IA generativa come ChatGPT è un prodotto della nostra società, con tutte le sue contraddizioni e le sue sfide. Esatto. E la responsabilità di come questo strumento verrà utilizzato è nelle nostre mani. Dobbiamo essere vigili, informati, impegnati per un futuro in cui l'IA sia al servizio dell'umanità. Un futuro che dobbiamo costruire con consapevolezza e responsabilità. E a proposito di responsabilità, il libro solleva una questione interessante, il cosiddetto ethics washing. Di cosa si tratta? In pratica, l'ethics washing è una sorta di greenwashing applicato all'etica. Le aziende si affrettano a proclamare l'etica dei loro sistemi di intelligenza artificiale, ma spesso si tratta solo di una facciata, diciamo. Fanno tanta retorica sull'etica dell'IA, ma poi nella pratica usano i dati in modo opaco e trascurano le possibili conseguenze negative. Ah, capisco. Quindi in pratica si cerca di dare un'immagine di responsabilità etica senza affrontare concretamente i problemi. Esatto. Un po' come mettere una bella etichetta su una scatola che dentro contiene qualcosa di discutibile. Proprio così. E il libro invita, diciamo, a non fermarsi alle belle parole, ma a guardare oltre la superficie e valutare le azioni concrete delle aziende. La vera etica si dimostra con i fatti, non con gli slogan. Giusto. E questo ci porta a una considerazione finale. L'IA generativa come ChatGPT è un prodotto della nostra società. Riflette i nostri valori e i nostri interessi con tutti i lati positivi e negativi. Hai ragione. E proprio per questo dobbiamo interrogarci su quali valori vogliamo che l'IA incarni, quali interessi vogliamo che promuova. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che l'IA non è una soluzione magica ai nostri problemi, ma uno strumento che può essere utilizzato in modi diversi con conseguenze diverse. Quindi la responsabilità di come questo strumento verrà utilizzato è nelle nostre mani. Dobbiamo essere vigili, informati e impegnarci per un futuro in cui l'IA sia davvero al servizio dell'umanità. È una sfida impegnativa, ma non possiamo permetterci di ignorarla. Il futuro dell'IA è anche il futuro della nostra società. Un futuro che dobbiamo costruire con consapevolezza e responsabilità. Grazie per averci accompagnato in questa Deep Dive. Alla prossima.